Buonasera a tutti, sono Gabriele della Cascina Caremma. Io volevo innanzitutto fare i complimenti ai miei predecessori che hanno parlato prima di me perché stanno facendo un lavoro molto, molto importante. Prima di parlarvi, ne parlerò velocemente della mia esperienza con la polenta. Vorrei sottolineare un aspetto che penso che per voi che frequentate Terra Trema, probabilmente da tanti anni, è un aspetto che vi tocca, che sicuramente cogliete. Così come essere qua per assaggiare dei vini, di questi agricoltori, di questi piccoli coltivatori, è un gesto che ha tutta una sua valenza anche politica. Io credo che mangiare questa polenta è un gesto anche qua, lasciatemelo dire, un po' rivoluzionario. E adesso vorrei spiegarvi e voglio capire se alla fine della mia trattazione se vi ho reso l'idea di quello che volevo raccontarvi. Allora, non so se tutti sanno come si produce normalmente la polenta, e forse è una polenta che fino adesso, in questi ultimi 30 anni, avete mangiato, abbiamo mangiato probabilmente. Allora, è praticamente una parte della macinazione, della farina che si ottiene dalla macinazione del mais industriale per alimentazione animale. È un mais che ha causato e causa inquinamento di falde freatiche. È un mais che ha rovinato l'economia agricola e anche la bellezza del paesaggio agrario italiano. È un mais che ha dato gioie e molti dolori agli agricoltori, compreso l'uso dei diserbanti che ci sta dietro, compreso il legame e le catene economiche che ti legano a questo tipo di mais. Perché questo mais industriale è legato alle multinazionali che lo producono, alle multinazionali che blindano il mercato e l'agricoltura e l'economia agricola del mondo. E forse sono una delle cause della povertà del mondo, queste multinazionali. Sono discorsi che probabilmente molti di voi hanno già sentito, ma è il caso forse di ribadirle ogni tanto. Anche perché queste multinazionali sono quelle che producono i diserbanti, i concimi chimici, sono legate quasi sempre a aziende farmaceutiche. E quindi vedete che business c'è dietro e sono sicuramente tra le multinazionali più potenti al mondo e probabilmente quelle che determinano l'economia e la politica del mondo. Dietro queste multinazionali c'è anche la genetica, che poi è un tema che vorrei trattare velocemente senza usare grossi termini tecnici, ma secondo me è importante, perché il mais industriale ha dietro un lavoro genetico di selezione fortissima. Che ha portato alla realizzazione di sementi che producono mais molto produttivi in termini di quantità, con tutto quello però che vi ho raccontato prima che ci sta dietro. Cos'ha di differente questo mais? Innanzitutto è un mais, come parlavo prima con loro, che ogni contadino si può produrre, mentre il mais industriale, la semente di mais industriale è prodotta da queste multinazionali e non puoi fartelo tu. Perché ci vogliono 7-8 anni di incroci di ibridi tra mais diversi, insomma, non stiamo qui a spiegare, è una roba lunga. Ma il figlio, cioè il figlio del mais industriale, non puoi seminarlo, se lo semini ottieni un mostro. Non so se è chiaro il discorso. Mentre questo, essendo una varietà, bisogna dire un termine brutto, che si chiama omozigote, ogni anno è uguale a se stesso e quindi ogni anno lo puoi ripiantare. Per questo che Sandro ha potuto fare questo bellissimo mais da polenta e anche i nostri amici del Garda, Giacomo, possono fare questa cosa. E in questo è rivoluzionario perché ti toglie dal vincolo di un meccanismo economico forte che sta rovinando il mondo sicuramente. E poi c'è tutto un discorso di qualità del prodotto perché quando voi mangiate questa polenta è ottenuta dalla macinazione di tutte le sue componenti, per cui c'è dentro l'olio di mais, che è legato al germe del mais, all'embrione, e che magari rende questa polenta, dopo un mese che è macinata, un po' amara, perché c'è questa problematica, effettivamente. E questo è un motivo per cui la polenta, questa polenta artigianale deve essere consumata fresca, deve essere consumata entro il mese se vogliamo avere un prodotto di qualità. Ma sicuramente è un prodotto che ha una valenza gastronomica di eccellenza, non ha niente a che vedere con la polenta, come si chiama, la boscaiola, non so come si chiama, quella che si fa in 5 minuti, non ha niente a che vedere anche perché è fatta, è coltivata in maniera diversa ed è derivata dalla macinazione del seme intero, mentre quella industriale è una componente, di una piccola componente della parte vitrea di un seme di farina industriale che serve per l'alimentazione, normalmente l'alimentazione animale. Non so se sono stato abbastanza chiaro su questo, su questa storia del mais industriale, della potenziale rivoluzione che ci sta dietro a mangiare un piatto di polenta artigianale. Per quanto mi riguarda, l'azienda La Caremma produce una polenta che ha la sua caratteristica più interessante, se vogliamo, e che è biologica. Voi sapete che per fare cereali biologici bisogna fare una rotazione. Normalmente si fa una rotazione con 4-5 specie diverse di cereali e di leguminose. Normalmente noi facciamo una rotazione che prevede riso, pisello proteico, frumento, orzo. Invece per fare il mais da polenta la nostra rotazione è un po' più simpatica, più particolare. Facciamo una rotazione mais-maiale. E viene da ridere, ma in realtà è proprio così, nel senso che noi, facendo anche allevamento di maiali biologici, alterniamo a un anno il campo viene coltivato con mais, l'anno dopo su questo appezzamento vengono allevati allo stato semibrado dei maiali che mangiano tutte le erbacce che ci sono dentro, che defecano e quindi concimano direttamente il terreno. Ovviamente questo viene fatto in maniera alternata per poter avere ogni anno un giusto concimazione naturale del terreno e la coltivazione della polenta che non viene concimata per niente se non dalle deiezioni che ha lasciato il maiale l'anno prima. Questa è una cosa che se venite in cascina, entrando nella cascina, vedrete sicuramente a sinistra, nel primo campo che c'è a sinistra, ed è una cosa un po' simpatica questa rotazione mais-maiale, che è una cosa un po' diversa dalle rotazioni normali. Grazie.